I Coreisciti, Meccana numero 29 di 4 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per il patto dei Coreisciti. Per il loro patto delle carovane invernali ed estive. Adorino dunque il Signore di questa casa. Colui che li ha preservati dalla fame e li ha messi al riparo da ogni timore.